Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Salvadanaio. Il nostro programma sta archiviando anche il mese di luglio. Vi preannuncio già che da lunedì prossimo ci saranno delle puntate speciali. Parleremo anche di mercati, rifaremo un po' la cronistoria dei principali eventi finanziari che ci hanno colpito di più nel corso degli ultimi mesi. Parleremo anche di consumi, parleremo di prestiti, di finanza comportamentale. Faremo una serie di puntate un po' più fredde appunto nel nostro contenitore, ma sempre con un occhio attento alle esigenze della famiglia, le attitudini al risparmio, ai consumi anche. Oggi che cosa facciamo invece per concludere appunto questo mese? Molti di voi ci avranno fatto caso, il Sole 24 Ore da qualche giorno si è arricchito di una nuova iniziativa, si tratta di Tutto Risparmio, che oggi peraltro è alla terza uscita, al terzo appuntamento. Sono nuove pagine quotidiane che per tutta l'estate accompagneranno risparmiatori, ma anche contribuenti ed imprese, offrendo delle indicazioni pratiche, degli approfondimenti su come affrontare le turbolenze dei mercati e anche le novità normative. Molte ne sono state contenute, come sapete bene perché ne abbiamo spiegate un po', nella recente manovra correttiva appunto dei conti pubblici. Le due pagine di Tutto Risparmio sono all'interno della sezione Finanze e Mercati. Oggi si occupano delle polizze di protezione, dalla protezione del credito agli altri paracadute in caso di imprevisto, cioè infortuni, invalidità o decesso. Ci sono anche delle indicazioni molto pratiche, quindi molto utili ai risparmiatori, su quanto costa assicurarsi nelle diverse fasi della vita, e ci sono anche delle indicazioni sugli errori da non commettere quando si sceglie la formula di protezione. È proprio la protezione in qualche maniera il tema che vorremmo argomentare con voi oggi, magari cercando anche di dare qualche spunto ai colleghi del Sole 24 Ore che sono con me questa mattina, che continueranno nei prossimi giorni ad analizzare le tematiche del risparmio alla luce di una crisi finanziaria che si sta inasprendo. Ancora una volta morde dal 2007 ma non lascia la presa, a quanto pare. E allora noi oggi vi chiediamo, e vorremmo aprire anche questa chiacchierata con voi, questo salottino se volete, quali timori si stanno generando in questo momento in voi? Come pensate di affrontare i prossimi mesi? Come pensate di orientare il vostro risparmio? Tutto sotto il materasso, oppure siete tornati a pensare al mattone, pensate al conto di deposito, al fondo di investimento, alla polizza vita? Raccontatecelo all'800240024 e noi commenteremo anche le vostre idee, le vostre considerazioni con Marco Loconte, Plus 24, il Sole 24 Ore. Marco, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Gianfranco Ursino, sempre collega della medesima redazione. Buongiorno. In prima linea in questi giorni per il lavoro appunto di Tutto Risparmio. Non vi dico che facce stanche, poveri che hanno, però non hanno voluto certo mancare l'appuntamento con Salvadanaio questa mattina. Allora, oltre alle pagine di Tutto Risparmio, vi ribadisco il numero verde per intervenire, 800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Anche la giornata di oggi merita un commento a parte, guardando all'andamento delle borse, perché stamattina, come vi anticipavo già nel giornale radio, è ancora una volta il comportamento di un'agenzia di rating a dettare l'umore degli investitori e a dettare la direzione della giornata. Londra meno 0,46, Parigi meno 0,82, Francoforte meno 0,78. Segnaliamo anche la Spagna oggi, l'Ibex 35, un listino piccolo ma comunque oggi va monitorato, meno 1,35%, Milano FTSE MIB meno 0,75%. Perché c'è il segno meno ovunque stamattina? Perché l'agenzia di rating Moody's ha fatto sapere che prevede di abbassare il rating sul debito sovrano della Spagna. Adesso è a AA2. Il motivo? Le difficoltà di bilancio del paese sono note. Naturalmente Moody's adesso decide di intervenire. Non sappiamo quando lo farà, ma in ogni caso c'è stato questo preannuncio. Non solo, Moody's ha anche detto di aver messo sotto osservazione il rating di 4 banche spagnole. Fra queste ha stupito un po', ma magari non è tanto sorpreso il mercato, l'atteggiamento nei confronti di Santander, questa la più grande banca spagnola ma tra le più grandi anche europee, che peraltro dai recenti stress test era uscita come la banca con la migliore solidità appunto patrimoniale in tutta Europa. E tutto questo appunto stamattina rideprime di nuovo i corsi azionari. L'euro sul dollaro è a 1,42,84, il petrolio era stamattina in Asia, il greggio di riferimento americano a 97,22 dollari, il WTI, il Brent di Londra a 117. In tutto questo, naturalmente, non dobbiamo dimenticarci il nuovo ostacolo sul percorso per evitare il default degli Stati Uniti, e perché ancora una volta le schermaglie politiche in sede congressuale non sono terminate e il 2 agosto si avvicina prepotentemente. E quel giorno, se non si troverà un accordo, la cassa americana si chiuderà e non si sarà più in grado, appunto, Barack Obama di far fronte ai pagamenti, oltre ai titoli del debito, ma anche le pensioni, gli stipendi pubblici. Insomma, non sarebbe uno scenario molto divertente, e quindi speriamo che, anche se sul filo di lana, un accordo ne si trovi. La giornata di stamattina vorrei però commentarla con un interlocutore esperto di mercati. Io ringrazio e saluto Fabrizio Gastaldi, responsabile Area Europa di Alepti Gestielle SGR. Buongiorno, buona giornata. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Era atteso o no il monito di Moody's sulla Spagna? Direi di no, innanzitutto, però è un negative outlook, un negative watch, diciamo, quindi non è ancora ufficiale che taglino da 3 a 2. Ma sicuramente l'effetto è di deprimere ulteriormente il mercato, che è già fragile di suo, però è un concatenamento di cause, io credo, cioè è legato sia alla situazione, diciamo, europea, per la quale però, fra le altre cose, sono intervenuti in maniera molto efficace la scorsa settimana, però purtroppo i tempi di implementazione del fondo salva stati richiedono tempo, e quindi la speculazione in questo lag temporale di non governo, fra virgolette, ci sguazzano purtroppo. E il problema sicuramente americano, che mancano pochi giorni alla definizione del debt ceiling, quindi urge che trovino una soluzione abbastanza immediata. E il terzo motivo è importante anche questo, è la reporting season che è in corso in Europa. Posso fare la traduzione istantanea, sì, a Gastaldi? Sì, in sostanza, sì. La stagione della divulgazione delle trimestrali da parte delle società. E qui c'è da dire che è una situazione, diciamo, che i dati del secondo trimestre non sono così brillanti come molti si potevano aspettare. Ritengo che sia una cosa abbastanza naturale, nel senso che arriviamo da 4 trimestri di crescita continua, quindi più di un anno e mezzo. I dati macroeconomici già indicavano una fase di temporaneo rallentamento dell'economia, e quindi i dati microeconomici non stanno facendo nient'altro che confermare questi dati. Questo ovviamente, unito al nervosismo e alla mancanza di compratori sul mercato, porta a fare delle performance molto pesanti verso il basso ad alcuni titoli che magari missano, cioè non raggiungono i target che erano stati indicati dal consensus degli analisti. Quindi tutto questo concatenamento di cause, chiaramente legate una con l'altra, fanno sì che il mercato sia così fragile. Direi che però dall'apertura di stamattina il mercato ha recuperato abbastanza. Oddio, adesso riperde di nuovo un punto sul FTSE MIB e anche le altre piazze, quindi rinoto già una certa volatilità come quella che si è manifestata ieri. Gastaldi, secondo lei, le chiedo proprio un giudizio pratico, un'indicazione pratica da fornire agli ascoltatori che ci stanno ascoltando e che magari hanno avuto il coraggio di mantenere ancora delle posizioni azionarie in portafoglio, ma non sanno che cosa fare, se è come andare tranquilli in vacanza, mantenendo inalterate queste posizioni o ancora approfittare degli ultimi giorni prima delle ferie per rivedere la distribuzione, appunto, dei propri investimenti. Questo sarà un agosto, secondo così un po' la vostra sensazione, che invece manderà oltre ai mercati anche l'umore sulle montagne russe? Sì, la volatilità purtroppo la fa da padrone. Non dimentichiamoci che oggi dalle 2:30 in avanti usciranno dei dati importanti anche americani, per cui questo, unito al discorso da americano e alla reporting season, molto probabilmente porterà un'elevatissima volatilità già oggi, ma anche nei prossimi giorni. Il consiglio spassionato che io posso dare in questi momenti è di stare fermi. Tra l'altro, citava i dati macroeconomici di oggi: esce il prodotto interno lordo del secondo trimestre negli Stati Uniti, un indice anche di Chicago della produzione industriale e un indicatore della fiducia dei consumatori, è quello elaborato dall'Università del Michigan. Gastaldi, un ultimo commento solamente: la stagione delle trimestrali italiane non mi sembra ancora partita a sprombattuto, nel senso che alcune società, stamattina lo ha fatto Eni, ha rassegnato i suoi dati, ieri lo ha fatto Finmeccanica e ancora Pagadazio a Piazza Affari, ieri un vero crollo, oggi ancora meno 5. La sensazione invece sullo stato di salute delle società quotate a Milano qual è dal suo punto di vista? Direi che dal punto di vista riassumo un pochettino anche l'andamento della situazione europea, cioè un quarto di rallentamento sicuramente è in pancia alle società italiane. Quello che c'è da dire è che rispettano la crescita sulla parte della top line, cioè sulla parte del fatturato, i margini sono ancora in contrazione rispetto al periodo precedente, essenzialmente dovuto agli costi industriali, che specialmente le materie prime, che sono salite molto. Questo dovrebbe portare chiaramente a una contrazione dei margini, quindi non attendiamoci una trimestrali particolarmente forti, però ripeto, è una fase di rallentamento del ciclo che era già abbastanza annunciata anche dai dati macroeconomici. Direi che nel medio termine l'importante è risolvere la situazione macroeconomica a livello di debito dei governi, perché questo, se ulteriormente non viene risolto, danneggia sia da un punto di vista del sentimento e quindi di nuovo dagli attacchi speculativi ai vari paesi, e sia dal punto di vista dell'economia reale, perché la sfiducia sull'economia reale poi viene a instaurarsi e quindi può portare a conseguenze abbastanza pesanti. Gastaldi, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. Allora, noi ritorniamo invece alla nostra missione di questa mattina, che è presentare, anche alla luce degli scossoni del mercato, l'iniziativa del Sole 24 Ore Tutto Risparmio. Le pagine che ci accompagneranno nei prossimi giorni, su quali temi focalizzeranno i colleghi del Sole la loro attenzione, soprattutto per dare indicazioni appunto concrete ai lettori. Con chi cominciamo? Marco Lo Conte, visto che tu sei stato l'autore della prima uscita 2 giorni fa, quella dedicata alla scelta del conto corrente adatto alle esigenze personali e familiari. Intanto, insomma, come verrà articolata tutta l'iniziativa? Come mai siete partiti da lì? Come mai siamo partiti dal conto corrente? Perché il conto corrente è lo strumento base sostanzialmente per la gestione e l'amministrazione del proprio denaro. Qui transita lo stipendio, la pensione, partono le uscite, e dunque la scelta dello strumento più indicato, più coerente con le nostre esigenze, era fondamentale. Ci siamo occupati di una delle tipologie di conti correnti che sono stati classificati da diversi istituti di ricerca, ma in primis dalla Banca d'Italia, a seconda di vere e proprie gruppi di popolazione. Ci sono i giovani, ci sono i pensionati che gestiscono in maniera frequente, e altre che invece hanno una bassa movimentazione. Poi ci sono le famiglie tipo, che gestiscono i propri conti con il proprio conto corrente con un'operatività bassa, media e alta. Ci siamo occupati sostanzialmente di chi? Delle famiglie con un'operatività media, che devono gestire la propria attività quotidiana. Il conto corrente serve per ricevere il denaro, per fare le spese, tramite la domiciliazione della bolletta è possibile risparmiare molto. Ormai il mondo è cambiato rispetto soltanto pochi anni fa, rispetto a quando questo programma lo conducevo io. Sono passati solo 7 anni. Soltanto 7 anni, però sono stati importanti, perché effettivamente abbiamo, anche dai dati, dalle analisi che abbiamo riportato, la stragrande maggioranza dell'offerta prevede per esempio l'utilizzo del canale internet, e se non è internet anzi, oltre a internet, di solito è anche abbinato un canale a distanza, un call center telefonico. Questo consente di abbattere decisamente i costi, che sono molto più bassi che in passato, e possono scegliere con un po' di attenzione, perché questa è la filosofia di Tutto Risparmio, di questa iniziativa che accompagnerà i lettori per tutta l'estate fino alla fine di agosto. È quella di accompagnare per mano il lettore per compiere le scelte più idonee, più utili a risparmiare, a essere più sicuro, a compiere la scelta giusta, ad evitare l'errore, quello che più frequentemente occorre o anche quello più nascosto. Per far sì che, insomma, il risparmio non sia un grattacapo, ma che sia l'occasione per gestire al meglio le proprie attività e per essere anche più sereni sostanzialmente. Certo. Allora, come abbiamo avuto modo di spiegare tante volte ai nostri ascoltatori, anche se questa non è esattamente una bella notizia, la crisi finanziaria degli ultimi anni ha cancellato l'ottica del lungo periodo, perché c'è stato un momento nel marzo del 2009 in cui i mercati finanziari praticamente si erano ritrovati sullo stesso punto dello stesso periodo, dello stesso mese del 97, quindi avevano cancellato qualcosa come 12 anni di borsa, e quindi per chi effettivamente affidava il proprio risparmio al mercato azionario in un'ottica di rendimento interessante, appunto proprio perché questo era stato spiegato loro che è premiante nel lungo periodo, hanno trovato questa sgradita sorpresa, e molti risparmiatori si sono ritrovati dunque a ricercare strumenti di investimento a brevissima scadenza, fortemente liquidi, in modo tale da poter essere smontati rapidamente in caso di necessità. I pronti controtermine hanno ritrovato un grande smalto negli ultimi periodi e questo è stato l'oggetto della seconda pagina di Tutto Risparmio di cui si è occupato Gianfranco Ursino proprio ieri mattina. Gianfranco. Sì, perché in questi momenti naturalmente anche presi dall'ansia da quello che uno vede che i mercati azionari e anche quelli obbligazionari soprattutto in questo momento, no? Che si muovono con una volatilità molto repentina, a questo punto il lettore si fa prendere un po' da quest'ansia che potrebbe condurre a fare anche delle scelte ulteriormente sbagliate, nel senso già oggi come oggi è difficile gestire i propri risparmi perché come sappiamo sono pochi quelli che dedicano il tempo necessario minimo per poter avere un'attenzione che la gestione dei propri soldi richiederebbe. No, e provo tutti quanti a fare una considerazione in questo momento su questo perché effettivamente ci preoccupiamo di tutt'altro, ma di come farli i soldi, infatti, anzi, ma non tanto come gestirli. Quando ci sono momenti di difficoltà come questi si tende a rinviare magari l'esame della situazione perché si ha un po' di paura di trovare chissà che cosa, insomma. Poi magari torniamo anche su questo aspetto psicologico. In questo le banche naturalmente che sono i primi interlocutori, oltre che i promotori finanziari, i consulenti, no, con cui uno si interfaccia, cercano di andare incontro, no, anche a questo. Questa voglia di sicurezza, di tranquillità che uno va a ricercare sedendosi allo sportello, di proporti dei prodotti per gestire questa fase transitoria, transitoria mica tanto visto come sono andati i mercati negli ultimi anni, però drammaticamente, lungamente transitoria. Cerchiamo quindi, no, con questo servizio che offriamo, che poi è proprio lo spirito di servizio che ci ha indotto diciamo, a fare queste pagine per quest'estate, cercando di dare delle risposte puntuale sia sui singoli prodotti e quindi come naturalmente affrontare il consulente allo sportello che te li propone in maniera tale da avere una guida pratica anche e porre delle domande più opportune certo. A chi naturalmente si interfaccia con la banca. Dall'altra parte offriamo proprio un servizio di dare delle consulenze, noi con l'aiuto dei nostri collaboratori indipendenti, anche sulla base diciamo di un profilo, no? Che il lettore ci illustra, no? Delle sue esigenze, delle sue disponibilità economiche, della sua percezione del momento che ha, quindi della sua propensione al rischio che si sente di manifestare, a questo punto cerchiamo di dare anche delle consulenze personalizzate sempre nell'ambito di una asset allocation, diciamo una suddivisione delle proprie risorse senza fare nessun tipo di riferimento, indicazione, certo, investimento, anche perché cerchiamo sempre di esprimere queste consulenze per avere una sorta anche di controprova rispetto a quello che ti offrono allo sportello, certo. Che invece sono più interessate come... Infatti, il conflitto di interessi. Vabbè, Dario da Saronno tra l'altro ha una domanda proprio sul tema che Tutto Risparmio tocca questa mattina, sono le polizze di protezione. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Inquadro velocemente la mia situazione, 53 anni, ho una moglie e una figlia, un appartamento di proprietà, i miei genitori hanno una casa di proprietà. Per fortuna faccio un doppio lavoro, quindi riesco in questi tempi anche a mettere via qualcosina. Però allora il conto corrente, come sapete, dà dei redditi pari a zero. Comprare una casa nuova, una seconda casa costa parecchio e del resto vendere quello che si ha a livello di immobili non è così facile. Io 13 anni fa ho stipulato due polizze vita che mi hanno dato la possibilità, è vero, di scaricare, allora si poteva, il 20% per quanto riguarda le tasse. Però ho fatto fare dei calcoli ultimamente e andrei a oggi a riavere pochissimo di più di quello che ho versato. Ora, intanto che scadenza ha questo prodotto, Dario? Perché sta andando tra 2 anni, era quindicennale. Sì. Allora, io dico questo, per fortuna, dicevo, riesco ancora a risparmiare qualcosina, ma di questi periodi la cosa che mi è venuta più semplice pensare è proprio quella di metterli sotto il materasso. Però, come dire, magari lì fra qualche anno, poi quando li va a ricontare, se l'inflazione riprende a crescere, Dario, magari con la cifra che è oggi, con la quale comprerebbe qualcosa di interessante, fra 5 anni invece non potrebbe ricomprarci lo stesso. Adesso è una considerazione molto banale questa, però. Allora, la polizza vita Marco Lo Conte, nella sua proprio, come dire, più semplice forma, effettivamente questo risultato porta, non garantisce chissà quale tipo di rendimento. Cara grazia, che protegga il capitale che versi e che ti riconosca quantomeno la copertura dall'inflazione che si può registrare appunto in 15 anni come nel caso dell'ascoltatore. Allora, intanto il calcolo, invito l'ascoltatore a controllare bene se la restituzione del capitale prevede anche, come dire, è al netto dell'inflazione oppure all'ordo. Mm-hmm. Perché questo è importante? Io mi auguro, ma a occhio e croce, se è una polizza stipulata prima del 2000 dovrebbe garantire il valore reale del denaro versato, ossia dovrebbe garantire anche il rendimento dell'inflazione. E attenzione, l'inflazione è vero che è bassa, è stata bassa negli ultimi anni in maniera quasi impercettibile per la gran parte dei risparmiatori, ma l'inflazione è un tarlo che erode quotidianamente il valore dei nostri, del nostro denaro. È una tassa occulta che piano piano smonta quello che facciamo fatica a costruire. Dunque, la protezione siccome non la paghi però come una commissione, chiaramente non la vedi, ma ne subisci nel lungo termine appunto le conseguenze poi di questa erosione. L'invito è a non trascurare questo aspetto nel momento in cui si decide di accantonare del risparmio in uno strumento. La protezione dall'inflazione è molto importante. La considerazione di carattere un po' generale, è vero, le polizze non proteggono più di tanto, cioè non fanno guadagnare più di tanto, almeno le polizze vita di primo pilastro, di ramo 1 sostanzialmente. Ci sono le polizze un po' più tra virgolette speculative, collegate a panieri di titoli, a indici oppure a fondi comuni, le polizze index o unit linked, che hanno un grado di tra virgolette speculazione, ma non è speculazione, di risparmio un po' più aggressivo. È chiaro che questa aggressività può provocare delle oscillazioni di cui dobbiamo essere consapevoli. Allora, forse la considerazione di carattere generale, con 15 anni di tempo un risparmiatore può costruire una posizione, diciamo che un po' più ambiziosa dal punto di vista del profilo di rischio. Certo, deve esserne consapevole, deve rispecchiarsi con la sua, col suo DNA di risparmiatore e esserne anche consigliato, a dovere. Spesso il consiglio è interessato sia da parte di un agente che da parte dello sportello bancario. Fiorenzo ci scrive: sì Gianfranco, no, ti faccio partecipe di alcune considerazioni un po' pittoresche di alcuni ascoltatori. Fiorenzo da Bergamo dice: sotto al materasso fra 5 anni varranno anche meno. Certo. Ma saranno ancora gli stessi, gli investimenti degli ultimi anni non hanno dato neppure questo. E non è mica detto, perché i titoli di Stato nel loro piccolo, con tutti i problemi che hanno creato, comunque un rendimento positivo l'hanno dato, almeno i titoli a breve, per cui è come Totò Peppino che nascondono i soldi sotto il materasso, dicono che è stata l'inflazione, invece Totò che si comunque, devo ripescarmi questo comunque pezzo volevo, film. Volevo rispondere a Dario e dire un consiglio spassionato: mette tutto ciò che vuole sotto il materasso, ma per quanto riguarda questa polizza che ha già sottoscritto, che ormai quindi mancano soltanto 2 anni alla scadenza, non la riscatti prima, perché altrimenti ci va a perdere molto altro anche che guadagnare. Se è arrivato, anche se, perché sappiamo che c'è tutta la questione dei caricamenti che vengono applicati visto soprattutto a livello iniziale. Visto che Dario è così fortunato che riesce anche a risparmiare qualcosa, quindi mi sembrava che non avesse questa necessità impellente di utilizzare questi soldi, quella polizza la mantenga fino a scadenza, perché altrimenti potrebbe subire delle perdite. Certo, anche tanto, no, esattamente, poi non abbiamo pensato di chiederglielo, magari lui solamente stava già così in vista del termine della polizza che avverrà fra 2 anni, stava già facendosi fare dei calcoli appunto di possibile entità e mole del riscatto. Bisogna farle prima, ormai bisogna farle prima di sottoscriverle tutti questi calcoli, tutte queste ipotesi, perché bene o male si riescono a fare. Soprattutto per queste polizze qua, perché magari se fosse stata agganciata ad un prodotto di investimento, ad un'obbligazione tipo la famosa Lehman Brothers di qualche anno fa, magari lì il calcolo del rendimento sarebbe stato impossibile da presumere all'inizio, Marco. E neanche dopo, nel senso che poi col fallimento del titolo. Caso devastante. Sì, esatto, una polizza esatto. Bene sempre fare più preventivi, richiedere sempre più intermediari, naturalmente le loro offerte, fare dei confronti. Come dice Federica Pezzati oggi sul Sole 24 Ore, sì, nella pagina di Tutto Risparmio, dedicata alle polizze di rischio, sostanzialmente polizze di protezione, la prima cosa da non fare è una scelta affrettata, perché a volte veniamo indotti a sottoscrivere degli strumenti perché spinti da soggetti, ma dobbiamo confrontare. Noi qui un confronto piccolino l'abbiamo fatto, ma non mancano per esempio online tanti siti che propongono confronti tra strumenti a seconda delle nostre esigenze, con prezzi e prestazioni diverse. Senti una cosa, Marco, visto che c'è un ascoltatore che chiede delucidazioni relativamente a una cosa che hai detto tu prima, ritorniamo alla pagina sui conti correnti. Sì. Tina ci chiede una spiegazione molto precisa sulla motivazione per cui addebitando le bollette sul conto corrente si risparmierebbe. Cioè, si risparmia rispetto a un conto corrente che fa pagare ciascuna operazione. Un conto corrente online con una tariffa flat, cioè onnicomprensiva, e sostanzialmente una formula a pacchetto, in genere prescrive, cioè come dire, fa pagare tutto insieme tutta questa operatività. Oppure è conveniente far pagare con la pagare attraverso la domiciliazione delle bollette su un conto corrente rispetto ad andare tutte le volte alla posta, per esempio, e stilare un bollettino e effettuare un pagamento, perché lì c'è sempre una cifra da pagare per questi... €1,10. Allora, io non lo sapevo, per esempio non mi ricordavo l'ammontare della commissione per il pagamento allo sportello perché ho la domiciliazione, effettivamente. Certo. Allora, andiamo un po' da Alessandro da Vicenza. Alessandro. La mia situazione è questa: un'entrata mensile fissa di €2,500 tra me e mia moglie, un bambino di 5 mesi, un mutuo di €100,000 stipulato 2 anni fa con rata più o meno €500 al mese. E quant'è il mutuo complessivo, Alessandro? 100.000 euro in 20 anni a tasso variabile. Al momento siamo sui €500 mensili di rata e €30.000 sul libretto. Che faccio? Gli sconto dal mutuo? Anche se la mia banca ha tirato più un po' sul naso, preferirebbe investirli. Ditemi voi. Alessandro, che bella situazione. Intanto congratulazioni per il bambino, che è sicuramente il miglior investimento per la sua famiglia. Allora, faccio subito una chiosa su un altro tema. Allora, ammettendo che Alessandro adesso venga convinto dalla banca e così questi €30.000 li voglia collocare in prodotti di investimento come azioni ed obbligazioni, dobbiamo spiegargli, caro Gianfranco, che da questo momento in avanti il conto titoli avrà un costo un po' più salato del passato. Sì, naturalmente con l'avvento della manovra finanziaria varata dal governo il 17 luglio scorso, naturalmente c'è stato un incremento per chi ha delle soglie superiori ai €50.000, perché è previsto un inasprimento, diciamo, dell'imposta di bollo, che degli attuali €34,2, che comunque è sempre quella per chi ha dei soldi sotto i €50.000 sul deposito titoli, ma per gli altri possono subire un profondo aggravio, in quanto potrebbero arrivare anche già nel 2011 a €380, per arrivare a delle cifre anche di €1,100 per chi ha delle somme, comunque stiamo parlando, superiori ai €500.000. Ora, non è il caso del nostro ascoltatore che si chiede che faccio. Se 30.000 euro, se ben ricordo, li utilizzo per un po' andare ad abbattere il mutuo o meno. Certo, sono considerazioni che deve fare anche alla luce uno della propensione al risparmio che ha di questi 2.500 che riesce a portare a casa e a tutta la famiglia, quanto riesce a mettere da parte. Certo. In più, intanto un figlio, quello è l'unico risparmio che in questo momento ha accantonato, forse vale la pena intanto tenere una piccola cassaforte avendo un figlio di 5 mesi con tutte le questioni legate alla crescita che uno deve proprio fare, tutto quanto il resto. Quindi €30.000, e anche perché abbiamo un mutuo che lei ha stipulato 5 anni fa, penso con dei tassi abbastanza convenienti, con uno spread anche che all'epoca riusciva a spuntare, provo a indovinare, anche intorno all'1%. Oggi come oggi le banche, con tutto quello che è successo sui mercati, sono ritornati intorno al 2? Ma dipende poi naturalmente del profilo del cliente, ma possono arrivare, ma partono dall'1,5 in poi. Quindi a questo punto si tenga quel mutuo se riesce a sostenerlo, senza il consiglio spassionato che le do, visto che ha questa situazione familiare del figlio, della protezione. Certo. Poi se ovviamente ha, come dire, altro risparmio del quale non ci ha raccontato, allora magari in quel caso vale la pena prendere in considerazione un'altra riorganizzazione. Fare due conti, perché il mutuo pagherà, che ne so, con un tasso variabile, come l'ha descritto, penso adesso intorno al 3%. Sì, ma poi adesso anche se... Quale strumento finanziario mi dà il 3%? Penso che sia quella la considerazione che faceva l'ascoltatore. I tassi aumenteranno poi di nuovo a dicembre, perché forse la BCE porta il tasso di riferimento dell'Eurozona all'1,75%, quindi un altro aumentino sulla rata ci sarà, però tutto sommato ancora vedo in un'ottica gestibile. Allora, che cosa andiamo adesso a sentire? Io intanto continuo a leggere gli sms, ma forse è meglio sentire un amico carissimo di Salvadanaio, che è Gianni da Varese. Buongiorno. Buongiorno signorina, e grazie per l'amico. Grazie mille. Ma ormai lei è affettosissimo con noi, affezionatissimo con la trasmissione. Ci dica. Perché fate un servizio che è importantissimo per i risparmiatori. Allora, prima cosa volevo dire, chiedere ai suoi esperti, no? Se secondo loro è una buona cosa investire una piccola parte dei propri risparmi nell'oro, ETC sull'oro fisico. Ne esistono dei tipi della Deutsche Bank tipo Age, cioè che assicurano contro il rischio cambio euro-dollaro. Mm-hmm. Poi seconda cosa, le obbligazioni ad esempio AAA, no? Però emessi ad esempio dalla BEI, dalla Börse o dalla World Bank, no? AAA, organismi sovranazionali. In valuta di paesi sicuri, cioè tipo dollaro australiano, dollaro neozelandese, dollaro canadese. Gianni, lei con questo dollaro australiano è fissato, me lo ricordo bene, ci fa sempre la domanda su questo. Allora guardi Gianni, io per correttezza le devo dire che abbiamo due giornalisti questa mattina, non due professionisti della consulenza del risparmio. So che hanno le idee molto chiare su tante cose e adesso quindi vedo quanto vorranno sbilanciarsi anche su queste considerazioni. Comunque grande grazie, qualora non rispondessimo in maniera esaustiva alla sua domanda, scriva pure a tutto risparmio@ilsole24ore.com oppure a salvadanaio@radio24.it, anche noi gireremo magari le nostre domande ai nostri colleghi appunto del Sole per rispondere in maniera più approfondita a lettori o ascoltatori che ci chiedono di fare un esame molto dettagliato. Partiamo con la prima parte, l'oro. Allora, oltre $1,600 l'oncia, toccati in questi ultimi giorni. C'è chi mi ha detto negli ultimi giorni, qualche gestore che ho sentito per curiosità, che nel giro di poco si vedranno anche $1,900. Non so sulla base di che cosa è stata fatta questa riflessione. Di fatto adesso però sono i grandi portafogli finanziari che si stanno muovendo intorno alle commodities, quindi non è più una crescita delle quotazioni legata alle zone emergenti del globo che hanno sempre avuto una forte domanda, soprattutto negli ultimi decenni, di materie prime. Adesso diciamo che è un territorio che viene un po' più investito dalla vera e propria speculazione finanziaria, per cui per un piccolo risparmiatore quanto deve essere piccolo il portafoglio rivolto alla materia prima, quindi all'oro? Marco, secondo te, Marco Lo Conte? Direi non eccessivo. Microscopica, no. Ma mica peraltro, perché allora in questa fase l'oro sale e probabilmente salirà ancora, perché l'oro è inversamente correlato con la crescita economica, soprattutto statunitense. Più c'è crisi e più la gente tutti insieme, mette i propri denari nell'oro. Questa è la correlazione, diciamo, questa è la legge. Poi, come tutte le leggi, è pronta a essere smentita, ma il trend è questo e probabilmente andrà avanti. Poi vedremo il 2 agosto negli Stati Uniti cosa accadrà. Questo è il vero punto di domanda straordinario a cui tutti siamo appesi, però questo è il tema di fondo. È inevitabile che sia cresciuto finora, vista la crisi, ed è probabile che continui se domani non si trova una soluzione finale, cosa di cui dubito. Quindi mettere i propri denari, una porzione del proprio risparmio, può essere interessante, ma non straordinario. Però il nostro ascoltatore ha parlato dell'ETC. Allora, Gianfranco Ursino è uno dei massimi esperti di tutti gli strumenti, a partire dagli ETF e tutti i simili ETF che sul mercato sono stati lanciati, per cui gli passo volentieri infatti, la parola. Dopo l'ETF l'evoluzione successiva è stata proprio quella dell'ETC, gli indici che replicano, i fondi che replicano l'andamento delle quotazioni appunto delle materie prime. E va benissimo utilizzarli, perché ti permettono quindi di andare con cifre modeste di diversificare il tuo patrimonio, il tuo portafoglio investimenti, e quindi un pizzico d'oro non fa mai male, anche se tutte queste considerazioni che ci siamo dette, soprattutto Deborah quando facevi riferimento alle grandi istituzioni finanziarie che ormai utilizzano le materie prime proprio come sorta di investimento, diciamo il pericolo è sempre dietro l'angolo, perché basta che queste grandi che uno un giorno decida di liberarsi di tutte queste posizioni, infatti punto, naturalmente siamo alla mercé, diciamo, di questi intermediari. cosa succede? Succede che dalle parole di Gianni che prima faceva trapelare, per esempio, sottoscrivo quello che mi copre comunque dal rischio valuta, punto sull'oro senza rischiare visto che sono investitore in euro, ma dall'altra parte diceva investo anche una piccola parte in un'obbligazione sovranazionale che posso andare a sottoscriverla anche con una valuta di cambio di riferimento che è sicura, ma sicura facendo riferimento anche alle valute che citava l'ascoltatore che parlava dell'australiano, neozelandese, ecco, è sicure. Sulle valute di sicuro non c'è niente perché la speculazione, oltre che naturalmente i fondamentali economici di un paese, possono sempre comunque cambiare, no, le loro aspettative. E quindi mi ricordo benissimo 2 o 3 anni fa sia il dollaro australiano che il dollaro neozelandese che hanno subito delle forti oscillazioni con un tracollo e poi una ripresa che ancora oggi sta andando avanti, però fino a quando? Quindi non lo so, andare a rischiare su delle valute sono dei rischi che non tutti si possono prendere. Però lui dice con la copertura, tra l'altro questo è un aspetto interessante, magari poi coprirsi anche da certi rischi comporta una struttura commissionale nel prodotto di investimento che si sceglie, che magari ti va anche a vanificare il miglior rendimento possibile, per cui non è detto che se tu cerchi la protezione perché vuoi proteggere dalla grande volatilità il tuo investimento, dovendoci pagare invece proprio per questa protezione, non lo vanifichi questo potenziale di rendimento. Marco Lo Conte. Un'informazione, allora tutti i paesi, tutte le economie vorrebbero in questa fase di globalizzazione, in quest'era globalizzata, vorrebbero avere una moneta debole, perché esportando molto, esportando a un valore più basso, incassano di più. Quindi quando gli Stati Uniti vedono, diciamo così, il proprio dollaro scendere, incassano di più e danno una spinta alla propria economia. Questo perché le grandi imprese statunitensi quotate sul listino di Wall Street producono il loro fatturato per oltre la metà fuori dagli Stati Uniti e in altre valute. Dunque, la correlazione è stabilità, forza economica grazie a moneta debole. Questa è la tattica a cui stiamo assistendo ormai da diversi anni. Per questo un euro troppo forte è un problema per la Germania oltre che per l'Italia, per questo un dollaro troppo forte è un problema per gli Stati Uniti, e per questo ci sono delle oscillazioni che non sempre, anzi solo in parte, per lontana parte, riflettono la solidità e la forza economica, la credibilità di un paese. Comunque chiudendo un po' come curiosità, diciamo, la telefonata con Gianni da Varese, non mi incuriosisce come non ha citato il franco svizzero ma ha citato il dollaro. Esatto. Forse perché l'ho interrotto rapidamente, perché sono sicura che ce l'aveva anche, come dire, la cartuccia in canna. Volevo passare subito a Roberto da Ferrara. Roberto. Sì, buongiorno. Risparmiare adesso è dura? È dura. Io, come diceva l'ascoltatore precedente, ho riscattato una polizza che avevo fatto di 15 anni, l'ho riscattata un anno e mezzo, 2 anni fa, e devo dire che è andata bene, iniziata nel 93, insomma è andata abbastanza bene. L'ha portata a scadenza però, Roberto? L'ho portata a scadenza, diciamo così, qui 3.500-4.000 euro li ho messi in tasca, diciamo così, perché era abbastanza favorevole. L'ho fatta tramite la mia banca, una promozione che era la mia banca locale. Solo che il problema è che adesso è che io ho reinvestito in bond della mia banca, però praticamente adesso sono venute a scadenza, parlo di un 2%, 2-30%. Adesso io non so più dove che pesci pigliare, Roberto, certo. Vabbè, allora, tanti aspetti, Roberto, ha posto alla nostra attenzione, chissà quanti ne riusciamo ad affrontare in questa manciata di minuti che ci rimane. Prima cosa, chi ha anche un piccolo risparmio adesso e non sa dove, come dire, orientarsi, se proprio naviga in una condizione di totale incertezza come nel caso di Roberto, come lo può parcheggiare intanto proprio per prendersi una decisione con serenità? Gianfranco, il conto di deposito, il pronto controtermine di cui tu parli, proprio qual è il parcheggio più tranquillo? Il parcheggio più tranquillo non il conto corrente, perché è una cosa diversa, certo, rispetto al conto di deposito, l'abbiamo detto tante volte. Il conto di deposito naturalmente non ti permette di avere un'operatività dei tuoi soldi, nel senso che è un investimento, che perché tu depositi e vincoli molto spesso il tuo denaro per un determinato periodo di tempo. Naturalmente c'è sempre, dietro qualsiasi tipo di rendimento c'è sempre un rischio da scontare, perché non è che nessuno ti regala nulla. Però in questa fase, ecco, la telefonata, no, proprio dell'ascoltatore testimonia quelle che sono le centinaia di mail che arrivano in redazione proprio su questo aspetto. In questo momento che devo fare, sto vivacchiando, sto cercando di andare avanti mese dopo mese o anno dopo anno, però senza avere nessun tipo di visione che va oltre i 12 mesi. Mm-hmm. Anche la banca stessa, come ha visto, ha proposto la sua obbligazione bancaria una volta che è scaduta la polizza. Questo intento così nobile, perché guarda, intanto che non stai tranquillo, mettiti... Tra l'altro, Marco, adesso Quindi è lo spunto, è stato quello, proprio sulla base di queste richieste che ci vengono date, che proprio era questa finale, proprio lei sintetizzava tutte. Mm-hmm. Naturalmente in questo momento di difficoltà di risparmiare, l'ansia che uno vive, a sto punto cerchiamo di dare delle risposte puntuali giorno dopo giorno, da una parte con un'analisi dei vari prodotti per gestire la liquidità che oggi uno ha a disposizione e che si sente proporre allo sportello. Mm-hmm. Quindi pronti il conto termine, nei prossimi giorni affronteremo anche altri prodotti, dalle obbligazioni bancarie. Esatto, il conto corrente postale, buoni fruttiferi postali, come ci indica un ascoltatore che voleva intervenire, Claudio, non riesco a farlo sentire. No, ma sono previste anche queste, esatto. Quindi ogni giorno affronteremo un aspetto molto puntuale di questi prodotti. Dall'altra parte cercheremo di dare risposte a chi naturalmente ha bisogno di avere, come l'ultimo ascoltatore, un'indicazione puntuale su quelle che sono le sue prospettive di investimento, di dargli delle indicazioni. Allora, guardate che vi tengo sotto controllo per tutta l'estate. Intanto invito ancora i lettori a scrivervi a tuttorisparmio@ilsole24ore.com. Salvadanaio termina qua, grazie a Marco Loconte e Gianfranco Ursino, vi lascio andare a completare le prossime pagine di Tutto Risparmio, naturalmente in bocca al lupo per la nuova iniziativa. Salvadanaio torna lunedì, da Deborah Rosciani, buon fine settimana a tutti.